Benvenuti, Craig non è neanche entrato, va bene. Benvenuti, episodio numero 100. 100, auguri! Sì. No, non è il compleanno che sarà la prossima settimana, da quello che ho visto, credo, sì. E 2 anni compiamo, sì, e per festeggiare faremo la carica dei 101, visto l'episodio 101. Non è vero, no. Non sono già, esatto, mi sono già... Allora, per l'episodio 100 ci sono state tantissime idee, alla fine ho deciso di fare il cazzo che mi pareva a me. E vabbè, intanto con me ci sono Jacopo e Andrea. Ciao. E Andrea ha preso un po' troppo alla lettera la mia idea di come guardare questo film. E Jacopo invece penso l'abbia visto normalmente. Come l'ha visto Andrea? Vuoi dirci come l'hai visto, Andrea? In 16 per. In 20 minuti ho finito. 4 ore e mezzo di E non ti sei perso nulla. Allora. E stasera parliamo. Allora, intanto, vabbè, episodio 100. Non si sa se Roberto arriva o quando arriva, però speriamo che una certa arrivi. Tanto non ha visto il film perché per ovvi motivi, visto che solo gli amanti di Snyder l'hanno visto. Infatti parliamo della Snyder's Cut. Piccolo disclaimer: se vi fa schifo Snyder o la Justice League, comunque aspettate o skippate alla fine della puntata. Perché vi regaleremo 100 euro. Vabbè, allora ci sarà un po' di dissing perché immagino che a Jacopo abbia fatto cagare, invece a me no. O forse il contrario. O forse Chi al può contrario. dirlo? Allora, intanto vorrei dire che adesso tutti cominceranno con le loro manine a dire "Incella, ora dirai perché parli con le mani?". Vabbè, perché faccio con le manine. Sei la versione streamata, mi spiace, ragione Icio. Esatto. Salla, e tu dici sempre che questo film fa schifo e quindi è bellissimo, quindi direi che anche questo film fa schifo e quindi è bellissimo. Allora, prima di tutto, non fate gli Snyder della situazione, che Snyder, come sapete, ha palesemente letto i titoli dei fumetti, l'inizio e la fine, e ha scritto i personaggi così. Ecco, voi non fate così, nel senso che il punto di vista è un pelino più profondo. Allora, il film in generale... Allora, il film come film in sé per sé non mi è piaciuto, ma poi ne parleremo. Però c'è un però, nel senso che con una visione differente sarebbe stato una cosa bellissima. Allora, intanto è uscito, questo è Justice League nella visione di Snyder, quindi è praticamente un altro film, ed è uscito il 19 marzo, no, il 18 marzo di quest'anno. Dura ben 4 ore, tipo 3 minuti, 2 minuti. E che altro devo dire? Segue lo stesso scheletro di Justice League. Quindi se avete visto Justice League è circa, cioè come impalcatura di film è la stessa cosa. Questo perché probabilmente lui aveva già girato così, poi è arrivato Whedon e a Whedon ha detto... Perché ridi? No, è un'altra cosa è successa. Una cosa prevedibile. Cioè? Roberta non riesce. Ah, non ho, perché ho tutto staccato. Vabbè, comunque dopo ne Vabbè. parliamo. E cioè, non ne parliamo, dopo vediamo. Allora, dicevo che Whedon si è trovato in mano questo film perché appunto Snyder ha avuto i suoi lutti familiari, abbastanza gravi anche. E quindi ha voluto mollare il progetto giustamente. E Joss Whedon si è trovato sta roba qua. Lui ha deciso che un po' gli faceva cagare. La Warner ha deciso: sì, vogliamo la Marvel ora, faccelo. E quindi lui ha rigirato due cazzate, ha messo i baffi a Superman. E quello che è uscito era poi la Justice League, che è uscita. Quando cazzo è uscito il film iniziale? Nel 2017, anni 2019? fa, 17? 17 mi pare. Ah, io pensavo tipo nel 2010, cioè mi sembrano 10 anni fa. E quindi in realtà lui, cioè Josh Whedon non ha cambiato molto lo scheletro, ma ha cambiato molto tutto il resto. E quindi in realtà la trama è più o meno la stessa. Ci sono appunto Batman mette insieme, vuole mettere insieme una squadra di supereroi, che sono poi la Justice League. Perché quando ha visto l'amico Fritz Lex Luthor nel film precedente, infatti questo è collegato dovrebbe essere collegato alla continuity, che però sta morendo, si sta evolvendo, non sa che cazzo di fine farà, gli ha detto sta per arrivare un nemico temibile, oh mio Dio, tipo solita roba supereroe. Quindi lui vuole mettere insieme questa squadra e per affrontare un nemico X. Nel frattempo questo in realtà non so se c'era nel film di Josh Whedon il perché le scatole si aprono, si attivano. Comunque, quello che Batman non sa è che ci sono tre scatole sulla Terra e che messe insieme formano la scatola madre, che è un'arma super power, supereroesca, e si sono attivate e hanno attirato un nemico proveniente dall'universo, che è questo Steppenwolf, che ha come idea quello di recuperare le tre scatole e far saltare in aria la Terra e farla diventare un mondo terribile. E questa è la trama della Justice League iniziale ed è anche la trama più o meno di questa Justice scatole. League. Sì, esatto, rompere le scatole. Perfetto. È una roba abbastanza banale, è una roba abbastanza fumettosa, ci sta. Quello che ha cambiato Snyder, che in realtà poi ha cambiato Joss Whedon, immagino, è il fatto che Steppenwolf sia lì perché vuole servire un nemico più temibile. E facendo così, l'idea di Snyder era quella di costruire intorno a questo film la continuity e altri film successivi, quindi creare l'universo. Anche perché questo film doveva fare le veci un po' di quello che è stato Avengers, con la differenza che Avengers ha coltivato i suoi personaggi fino a qua, questo film più o meno no. E, il cast è lo stesso, ci sono alcune aggiunte, c'è William Dafoe che non c'era di là, c'è chi altro c'è? C'è più spazio, Jeremy Irons che però c'era anche di là. E hanno aggiunto delle parti in più con Deathstroke alla fine, hanno aggiunto... No, quelle c'erano già. No, però ne hanno aggiunte di più. E dopo quelle sul finale. Sì, quella loro è un'altra cosa. Vabbè, sì, ho capito. Vabbè, sì. E hanno aggiunto delle scene in più con una guest star con cui hanno girato, che facciamo bene a non prendere, e che è il Joker di Jared Leto. E basta, in realtà poi il film è più o meno lo stesso. Sono state cambiate un sacco di cose, tra cui la CGI, di tutte le CGI possibili. È cambiato il gradiente di colore, di tutti i colori, e quindi in realtà tutte le scene sono diverse. Hanno tolto un botto di roba un po' alla Marvel, cioè la gestione degli abitanti del posto che viene devastato, della città russa. Meno male. Devastata, e l'hanno tolta, che era una roba super marvellosa, che avrà voluto mettere Josh Whedon, ovviamente. Oh, Joss, fammi Sokovia, fammi... Esatto, esatto. Le cazzatelle che fai tu! Esattamente così. E hanno tolto tutto, lo scontro finale è uno scontro finale vero. Vabbè, poi ci sono un sacco di cose di cui magari parliamo nel dettaglio, però insomma... Non è lo stesso film, ed è questo è molto figo da vedere, perché cioè in realtà il girato doveva essere più o meno lo stesso, avrà fatto qualche aggiunta, ma neanche troppe. E soprattutto la prima cosa che mi sento di dire, e che mi è piaciuta di questo film, è che non c'è quella faccia di merda di Henry Cavill con i baffi di merda. Ti giuro che è la prima cosa che ho notato. Ora, noi l'abbiamo notato tutti, perché all'inizio, perché c'era anche il coso, e magari normalmente avremmo notato solo qualcosa di strano nella faccetta di cazzo di Henry Cavill, che tra l'altro è Henry Cavill è un Superman fantastico, cioè io prego che quando la Warner farà il reboot, farà, perché insomma il pubblico, cioè non il pubblico lo vuole sì e no, perché insomma c'è un po' di... la Warner non è molto molto chiara su sta cosa. Quando rifarai il coso, tenete Henry Cavill, perché l'unica cosa buona, non è l'unica cosa buona ma è una delle cose buone, non fategli crescere i baffi mai più nella sua vita e basta. E magari se per... dovete far crescere i baffi, fatelo quando non deve fare altro. Esatto. Quando ha finito The Witch, era finito su Superman. Anche perché, allora, quello, vabbè, il retroscena che magari tutti sanno è che quando era uscita la prima Justice League, c'erano delle scene di Superman che Snyder aveva fatto e a Whedon non piaceva, e la Warner si è convinta che non gli piacesse, E visto che Josh Whedon gli ha detto sì, facciamo Superman che fa ridere, guarda. Tra l'altro quelle scene fanno schifo. Vabbè, sì, sì, fanno schifo, certo, sì, sì. E allora lui ha dovuto girare altre scene, peccato che Henry Cavill ovviamente aveva già finito il girato e stava già facendo un altro film che era Mission Impossible, in cui doveva già caricarsi i bicipiti per quel film, e si era fatto crescere da contratto sti gran baffoni, super fighi anche, e che però ha dovuto tenere per le riprese aggiuntive di sto film, e quindi gli hanno tolto in digitale, ma si vede un po' la faccetta di cazzo che ha davanti. E niente, continuo io a parlare di sta roba o vuoi subito dire tu il tuo dissing terribile su questo film? No, cioè vai, se hai qualcosa da dire vai. E allora, e intanto cominciamo dall'inizio. Allora, il film è diviso in parti, sono 6 parti. Il film in sé, a mio parere, è una merda, nel senso piano, non nel senso che il film fa schifo, nel senso che come film fa schifo, o meglio, come formato, come prodotto, così confezionato, a me fa cagare, cioè non è fruibile. Se tu andassi al cinema a vedere sto film ti romperesti i coglioni, perché dura 4 ore, perché è organizzato come un film di 4 ore lungo, e con personaggi che popappano a cazzo, che tu conosci perché comunque sono personaggi di sì, però insomma hanno uno spazio più o meno ristretto. Sembra un po' di guardare Game of Thrones tutti in una serata, e tu guardi una stagione di Game of Thrones in cui popappano personaggi a caso, è una serie TV, quindi ci può stare, però ecco, mi ha dato quell'idea lì. Secondo me sarebbe stato molto figo se, come voleva Snyder, tra l'altro, forse, non si sa bene, Snyder non credo vuole nella sua vita, e farlo no, non all'inizio ma adesso, o forse come voleva HBO, che comunque meglio ne capisce di sti cose e farlo uscire a puntate, quindi i capitoli sono divisi in puntate, come anche è strutturato così il film. In realtà secondo me la visione sarebbe stata molto più semplice, molto più fruibile, e sarebbe stato una buona serie TV. Cioè, a me sarebbe piaciuto vedere questa serie TV, anche perché ultimamente serie TV supereroi abbiamo la Marvel, che ha fatto uscire un gioiello, che è quello di WandaVision, ma prima di quello c'era la merda, cioè vi ricordo che cos'era quello lì dei marziano, dei lunari, come cazzo si chiama, Immortals, no? Inhumans. Inhumans è un prodotto Marvel, cioè è uno schifo, è una merda. E questo qui sarebbe stata un'ottima serie TV a budget altissimo, ma è vero che adesso le serie TV hanno quel budget. Aspetta, lì. Andrea ha sospirato. No, non voglio difendere nessuno. No, perché sei troppo duro. Sei troppo duro, cazzo. No, non è vero. Vai. Beh, vabbè, di serie TV Marvel. No, adesso so che a voi piace tanto Agents of Shield, però onestamente non è che fosse, cioè non stiamo parlando dello stesso tipo di serie TV. Salla, non sai quello che non sai quello che parli. Non giudicare Phil quindi è grande. Tutto sommato questo film è un film nuovo, ha alcuni difetti, tra cui appunto questo, ma ha tantissimi pregi. Allora, e rimane l'idea di Snyder di presentare un universo più dark, tra virgolette, perché in realtà non è dark nel senso Titans, ma è dark nel senso non è la cazzata della Marvel, e ci può stare, è una visione utile e ci può stare, anche se la gente poi comincia a dire DC triste, Marvel divertente. E quindi questo cosa comporta? Comporta che per esempio all'inizio, che deve introdurre i personaggi, l'introduzione dei personaggi è molto meno spettacolare di quella che aveva fatto anche Joss Whedon nello stesso film. Per esempio Aquaman non è che la prima scena che fa è lui fico con la bottiglia di gin che cade nell'oceano, ma è semplicemente lui che entra in acqua come uno stronzo e cammina dentro l'acqua. E l'altra cosa della presentazione degli eroi è che è un po' lunghina, quindi ci starebbe se fosse una serie TV, però è un po' lunga. D'altra parte, il fatto che sia lunga rende la caratterizzazione dei personaggi molto diversa rispetto a quella che era l'iniziale Justice League. Quindi adesso, finalmente, porca puttana, Flash ha una sua intro e non è lo stronzo a cui tirano un batarang in faccia e lui lo evita. Cioè, adesso c'è un minimo di idea di Flash, lui che parla col padre, cioè non è niente di che, non sto parlando di quarto potere, però insomma, che forse era il quinto o il sesto. Però insomma, cioè è un'altra cosa, è un'altra roba. E anche se allora, io capisco che Snyder ha voluto inserire ste robe, molte di queste robe sono trailer, quindi in una serie TV avrebbero funzionato, sì. Nel film no. Però ecco, ripeto, se questa la visione, cioè se questo film fosse davvero organizzato in episodi e serie TV, allora ci starebbero dentro benissimo. Altrimenti lui avrebbe potuto tagliare tutto, tipo la rapina di Wonder Woman e ficcarla in un trailer, oppure Aquaman che prende la bottiglia e si butta in mare, e, che butta la bottiglia e si butta in mare e, nella tempesta come trailer. E, allora rimane, vabbè, qua un po' ho preso appunti in modo un po' confuso, però insomma. E rimane il problema che Snyder ha la sua visione degli eroi DC, quindi questo rimane, e ovvero i supereroi DC non sono i supereroi dei fumetti, o meglio sono versioni dei supereroi dei fumetti un po' snaturate. Rimane il Superman che in Uomo d'Acciaio ha ucciso un uomo per non uccidere, cioè per salvare una tizia, e invece non ha mostrato i suoi poteri per salvare suo padre. Cioè rimane questo Superman qua, che non è il Superman reale, ma è il Superman di Snyder. Che è condivisibile o no, ai fan di sì, non piace Batman che uccide, non piace Batman verso Superman perché ha le motivazioni più stupide della Terra. Però insomma, cioè, non so come dire, la Marvel ha fatto uguale, cioè se vogliamo fare una comparazione, Thor è il buffone e Hulk è diventato un buffone perché ha passato del tempo con Thor, ma il personaggio reale non è così. Cioè i due personaggi reali, magari Thor potrebbe avvicinarsi nel Thor moderno, ma Hulk non può essere così. Quindi insomma, più o meno. E ovvio che se non vi piace Snyder, non vi piace questa roba, se non vi piacciono gli slow motion di Snyder, non vi piace questo film. Perché è pieno, e ripeto, come ho detto, la prima episodio del film si potrebbe vedere in 2x e probabilmente non cambierebbe una sega, perché sono tutti slow motion. E che altro? Vabbè, la CGI so che a Jacopo è piaciuta molto, a me è piaciuta la CGI quasi tutta. Non mi è piaciuto molto Cyborg perché è molto fumettoso, però in realtà ci sta, cioè Cyborg è fatto, cioè me lo immagino fatto così, non è, si vede che è finto, però è molto più realistico rispetto all'Iron Man che aveva fatto Joss Whedon. E che altro? Non saprei. E mi è Cyborg piaciuto... Cyborg sarebbe... No, Cyborg è Cyborg. Ah, è lui. No, lui mi ha fatto schifo anche a me. Cioè, la cinematica. Cioè, in realtà è più bello rispetto a Cyborg che aveva fatto che c'era in Justice League prima. Ah, è molto innaturale. Okay. Cioè, secondo me... Sì, non ha niente di realistico, è fatto apposta, secondo me. Cioè, non è fotorealistico, diciamo. Esatto. Secondo me è fatto apposta. Però, ecco, okay. Se prendi un fumetto, è così. Sì, lui è così. E è come se avessero fatto invece che quella merda di Wolverine di Hugh Jackman, che per l'amor di Dio è anche un bel Wolverine, il Wolverine reale che c'è nei fumetti, che è un'altra roba. E ci può stare o no? E è molto figo il fatto che comunque in tutto sommato questo film di 4 ore è praticamente un reboot, cioè le differenze della trama dello scheletro sono diverse, ma ci sono talmente tante differenze all'interno che sembra veramente un altro film. Cioè, sembra quasi che abbiano rigirato il film, anche se in realtà non è vero. Cosa? Sentivo un sospirone. No, perché, Viaggio. Cioè, mentre parlavi mi sono venute fuori 100 cose da dire e adesso non mi sono questa cosa. No, allora, vabbè, come dicevo, hanno aggiunto dei personaggi in più, hanno aggiunto Darkseid e un intro al multiverso, quindi anche un finale diverso, un mucchio di roba che un po' invita, avrebbe dovuto, perché ormai non credo lo faranno più, e garantire una continuity e quindi farlo davvero una serie TV, cioè sembra davvero una serie TV, sembra che loro debbano aggiungere roba, sembra che debba uscire Justice League 2, che è la season 2. In realtà questo è molto figo. Non è figo perché tu sai già che non sarà così, perché sai già che la Warner non ha investito più un cazzo, non ha fatto neanche uscire il film, l'ha venduto all'HBO, e anche se in America i cinema sono aperti. Ci sta, per l'amor di Dio. E allora, secondo me, adesso questo non c'entra un cazzo già, cioè sto un po' saltando da argomento all'altro. Allora, ma aspetta. Sì, vai. Che argomento è quello che vuoi introdurre ora? No, non c'entra un cazzo, voglio semplicemente dire una cosa al volo, che per vedere se vi piace questo film o no potete guardare Watchmen per vedere se vi piace. Oddio! Se vi piace come non in senso la trama, la scena, ma se vi piace come la regia di Snyder, potete guardare Watchmen ed è più o meno la stessa roba, cioè come girato il film. Invece... non la serie, non lo so, cioè, beh, Andrea, se arrivo, no, dicevo, no, volevo dire tornare un attimo indietro su altri progetti. Invece a me piacerebbe vedere qualcosa di Constantine, cioè ricordo di Constantine. Comunque, ecco, apposta, vai, sì, ma no. No, perché sapevo che c'era una serie in atto, cioè in produzione, però non credo. Sì, doveva esserci non una serie. All'inizio loro, la Warner ha fatto un sacco di progetti, poi non ci ha creduto più e li ha buttati via. E aveva fatto questo progetto che si chiamava tipo, com'era, cos'è, Dark DC o Noir DC, non mi ricordo come cazzo si chiama, in cui introduceva, diciamo, la magia e un po' di cose, di mostri, eccetera, eccetera. E lì ci sarebbe stato spazio per Constantine. Ora, io quel progetto ovviamente è esploso. Però io non so se adesso... Perché in realtà Constantine è un tipo di personaggio che potrebbe vivere benissimo da solo. È ovvio che il problema è che rifaranno... Cioè, se lo dovessero fare, rifaranno comunque un reboot, una roba che non c'entra un cazzo, è super scollegata. Vedremo. Io vorrei dare tantissimo LSD a Zack Snyder e fargli fare Swamp Thing. Sì, colorato. Ecco, ad esempio, certo, sì. No, vabbè, comunque, allora, tornando un attimo all'inizio, il motivo, non so se l'hai detto, non mi ricordo se l'hai detto, il motivo per cui Zack Snyder non ha finito il film... No, non l'ho detto. È che mentre stava girando Justice League, la sua figlia si è tolta la vita, insomma. Questa cosa, secondo me... Cioè, sono contento che sia riuscito a tornare indietro a rifarlo, nel senso che è stato, secondo me, un momento di catarsi per lui. Quindi, cioè, voglio un attimo entrare nel contesto e dire, ok, come persona, per quello che ha passato, ma anche per come si so che si comporta con gli attori, eccetera, come persona umana, cioè, mi sta più simpatico a pelle rispetto a Joss Whedon. Cioè, Joss Whedon magari ha fatto Buffy, ha fatto Avengers, cioè gli devo più come opera, però Zack Snyder, da quello che sento, comunque è una persona più umana. È vero che è un pazzo scatenato, c'ha un po' di, come posso dire, tipo lui dice, ah sì, alla gente è piaciuto di più Aquaman, però i miei film hanno un culto dietro. Quindi lui magari confonde l'ossessione di alcuni fan per... Ma in realtà... Pregio, che ci sta, cioè, c'è un motivo. Cioè, come l'ho letta io, lui è anche appassionato. Poi magari è appassionato nel modo sbagliato. Sì. Esatto, secondo me ha tanto amore, tanta passione per quello che fa, ma la esprime in maniera un po' sbagliata, nel senso che finisce sempre per, secondo me, concentrarsi sulla cosa sbagliata, perché anche il talento ce l'ha. Cioè, chiedi a un regista e ti dice, ah sì, comunque ha l'occhio per... Cioè, il fatto che a lui piacciono certe inquadrature di Watchmen e che le abbia rifatte pari pari, o di 300, o anche sì, qui, beh, anche ma infatti verso Superman, cioè io capisco che non, cioè, che il suo tipo di, cioè, i film che lui ha fatto non piacciono, possano non piacere alla maggior parte delle persone, però sono dei film cult, cioè 300 è diventato un film cult. Sì, Watchmen, ma a parte quello, cioè qualunque cosa, cioè la peggio merda può diventare cult. Quello che sto dicendo è che il vero merito non è che c'ha... Sì, no. Il vero merito però non è quello, cioè il vero merito è che quando guardi un film di Zack Snyder sai che è di Zack Snyder, nel bene e nel male, e secondo me il motivo è che ha un grande occhio, cioè visivamente è molto bravo a creare degli storyboard, a prendere quello che legge sulla pagina e a farci degli storyboard. Il problema è che come ho detto 500 volte nella mia vita, non fai dei film così, cioè non basta fare dei begli storyboard per fare un film, perché se non hai un senso del ritmo, come la canzone di Taylor Swift, se non hai un senso di editing, quando sarai il rallenti, quando no, gli effetti speciali, no? Abbiamo detto, hai gli effetti speciali migliori adesso nella versione di Zack Snyder, però comunque non sai come spostare Wonder Woman, cioè non sai come si muove Steppenwolf, cioè ti mancano, secondo me, degli elementi ancora per rendere bene la CGI, che per quanti soldi gli ci puoi buttare sopra, comunque non si muoverà in maniera naturale, non sarà naturale. Magari non vuoi che sia naturale, però stonerà sempre un po'. Quindi cioè, è un regista che ha delle cose positive e delle cose... Cioè, per me questo film è tutto un... Sì, questa cosa è fatta bene, però questo, capito? Cioè, tipo, sì... Mi è piaciuto di più Cyborg, mi è piaciuto di più Flash, però è perché il film dura 4 ore, quindi già hanno avuto più tempo di spiegarli, perché non hanno un film. Cioè, magari sì. Aquaman è uguale, cioè per me non è cambiato nulla in questo film. Aquaman l'ho visto, il film suo, so il personaggio che tipo di arco narrativo c'ha, mentre di Cyborg e di Flash non c'era nulla, non erano dei veri personaggi con delle, come dire, degli stake, no? Cioè delle cose in pericolo. Quindi questo un po' mi frena, perché dico sì, da un lato il film secondo me è migliore di Justice League, quello uscito nelle sale, ma dall'altro il sacrificio è che non è più un film. Da un lato c'hai la visione dell'artista, del regista, dall'altro c'è una mossa commerciale, da un lato c'hai la gradazione del colore più smorta, che in realtà, cioè, forse doveva essere direttamente in bianco e nero. Dall'altro, cioè, è no, tutto... non è vero che doveva essere bianco e nero. Sì, lui ha detto che la versione bianco e nero. Sì, sì, lui ha detto così, però non è, cioè, nel senso, lui ha potere finché vuoi, ma non può essere, cioè, un film di. No, lo so, film di supereroi fino a un certo punto arriva, lo so, non poteva fare solo cosa. No, solo è molto bello, vedere che comunque lui ha molto potere, nel senso che, cioè, è riuscito a cambiare un film. Cioè, è un film non completamente, ma molto diverso dall'originale. Quindi la regia e il montaggio cambiano la sceneggiatura, di fatto. E, però, sì, fino a un certo punto, ovviamente. Cioè, nel senso esatto, non è, non, secondo me non è che... Cioè, il problema è un po' da dove è venuta questa cosa. Cioè, è giusto, però, secondo me è un po' partita da una minoranza... Cioè... È bene che ci sia, però non sono convinto che sia una cosa buona. Non so come spiegarlo. Cioè, come dicevi tu prima, no? Ci sono dei fan di DC che non gli sta bene che Batman uccida le persone. E tu dici, vabbè, sti cazzi, cioè, succede sempre. Non importa come rappresenti un supereroe, cioè, se lo snaturi, però, cioè, importa il risultato finale. E secondo me il risultato finale è che non è un personaggio che in cui riconosco Batman come era nella pagina, ma soprattutto non è un personaggio che, cioè, perché lui dallo stesso tempo vuole attingere dalla come posso dire, dalla memoria, no? Quella che è sulla pagina, quello che è sul fumetto, quello che è sul cartone, ma vuole fare anche la sua cosa. Non puoi avere entrambe, secondo me. Cioè, non puoi dire, ah, guarda, c'è questo riferimento a questo fumetto, però poi è un'altra cosa, perché comincia a diventare complicato. Nel finale di questo film lui sta setappando una storyline che è si chiama Injustice Gods Among Us, la storyline, no? La timeline. Che adesso non sto qui a spoilerare, perché magari andatevelo a leggere, che è stupendo. Ma tanto non credo che uscirà, comunque, sì. Però vabbè, il fumetto è figo, quindi vi dico solo che quello che succede è che Superman uccide Joker all'inizio, perché succede una cosa. E sì, che in realtà poi, se avete visto i film passati, ci sono tutti i riferimenti, cioè non è uno spoiler, ma un mezzo spoilerino. Esatto, e questa cosa che è la causa scatenante fa partire un bordello, diciamo, di cose, è una specie di cioè, come si dice, di valanga, no? Cioè, comincia a accumularsi un sacco di roba. Ed è bello perché capisci un po' tutti i personaggi mentre succede questo bordello, quali sono i loro punti di vista, quello che succede alla fine pure è cioè le ultime parti di quel ciclo sono stupende, e c'è di mezzo pure il Flash, insomma è una bella storyline, però i personaggi che sono in quella storyline non sono questi. Quel Superman che fa quella cosa, che uccide Joker, non è vabbè, questo. Però poi bisogna stessa... vedere come lui lo rileggerà. Certo, cioè, devi sempre vedere come, sì, sì, come certo. leggerlo, però quello che sto dicendo è che non corrispondono, cioè non puoi ma avere era... entrambe, non puoi sempre dire ah, io però cioè, mi sono ispirato a questo fumetto, mi sono ispirato a quest'altro, prendi 100 fumetti, le cose non combaciano, cioè i personaggi sì. non capito. Però posso dire una cosa, cioè dipende, secondo me dipende, cioè alla fine la morale di questa favola è che lui deve vendere un prodotto. Ora lui può fare il cazzo che gli pare, può anche fare il mischione, e il punto è che se lui non vende questo prodotto, e quello che spunta fuori è che la maggior parte della gente non gli piace molto e escono fuori quelli a cui non piacciono i personaggi. In realtà, se guardiamo bene, questa gente c'è in tutti i film, cioè c'è quello che ti dice Watchmen a me non è piaciuto perché il finale non è così, che è vero. A me è piaciuto proprio per quello. Anche a me per esempio è piaciuto proprio perché l'hanno reso diverso, più moderno, molto più figo, eccetera. Però vedrai sempre quello che dice il mandarino non è il mandarino. La differenza è il pubblico. Ora, tutti hanno visto Iron Man 3, a molti non è piaciuto Iron Man 3 perché... non è uguale ai fumetti, anzi prende personaggi e li versa merda addosso, però la stragrande maggioranza delle persone gli è piaciuta, è andata al cinema a vederlo perché comunque aveva già creato una fanbase talmente ampia e alla gente è piaciuto talmente tanto Iron Man che è diventato il punto di partenza di tutto l'universo. Qua tu potevi vedere Batman vs Superman e potevi avere un amore per Superman perché avevi già visto film di Superman, quell'amore non c'è stato perché il film L'Uomo d'Acciaio è un bel film ma non ha raggiunto lo stesso la stessa fanbase, lo stesso, cioè non ha caratterizzato talmente tanto il personaggio da averlo reso un personaggio, è rimasto un Superman a metà tra Superman dei fumetti e Superman di Snyder. Ma per me Superman è questo, cioè a me Man of Steel è piaciuto perché secondo me non c'è un modo di rendere Superman meno sì, però poi quando hai visto Batman vs Superman hai detto ok, è una merda. No, cioè Batman vs Superman ha altri problemi, nel senso sì, che chiaro, ma ha voluto prendere quella strada, cioè se rimani, cioè se presenti Superman per quello che è, e cioè un personaggio che da solo fondamentalmente è una rottura di coglioni, e non fai vedere il lato più, come posso dire, interessante di Superman, ovvero che è, cioè quello un po' controverso, tra virgolette, un po' l'origine che ha avuto, quindi era essenzialmente una fuga mentale per questi autori ebrei durante un periodo un po' nazista in America, che era questo personaggio che era anche un po' controverso quando c'era, come ideali, come cose che faceva in giro, e quindi non fai quello, non fai la versione... come posso dire, edgy, che è quella che forse si adatta di più a Snyder, perché è quella che appunto stava scappando con Justice League. Quello che hai in Batman vs Superman è l'antagonista di Batman, cioè è essenzialmente un pupazzo sì. del governo, ma non è quello il personaggio. Beh, cioè, ma chiaro, ma anche Iron Man in Iron Man 3 non è Iron Man, e il contorno di Iron Man in Iron Man 3 non è il contorno delle storie di Iron Man. La differenza è che tu hai a monte talmente tanto potere, tra virgolette, sul tuo spettatore, che comunque tu dici, va bene, oppure vedi Thor Ragnarok e dici, ok, in realtà il film mi è piaciuto anche se Hulk esatto, cioè, è una merda. Esatto, perché il problema alla dietro base non così è quello. Tanto, ha così tanto potere sullo spettatore che comunque gli si dice, questo qui l'ha riscritto, questo personaggio ormai è entrato dentro di me, invece no, Superman aveva solo un film a parte, Batman non aveva una sega, e viene presentato come l'assassino delle persone, è ovvio che non sei riuscito a fare l'operazione che avresti dovuto fare, quindi la maggior parte delle persone prendono i tuoi personaggi e dicono, guarda, hai fatto un miscuglio di roba, ci hai messo un po' del tuo, e quello che è venuto fuori è un frullato di schifo. Che, esatto, cioè il problema non è che l'hai voluto fare, il problema è come l'hai fatto. Sì, cioè, non però è... Cioè, non è un problema in senso stretto del film, è un problema più del progetto in generale, ma quello non è colpa di Snyder, quello è colpa della produzione che sta dietro a Snyder, perché loro hanno voluto fare un one man DC, praticamente, però è ovvio che non puoi gestire una roba del genere, cioè ci deve essere un retroscena molto più organico. E quello che è venuto fuori è questo qui, che è un Frankenstein di roba, e che continuerà a essere un Frankenstein di roba per sempre. È un po' un peccato, però ecco, non è la colpa dei personaggi di Snyder, è la colpa di la direzione dietro, che ha voluto fare un miscuglio di roba, ha preso un po' da Marvel, ha preso un po' da cosa, sì, ha dato ok a Snyder. Sì. Cioè, un po' è vero, nel senso che la DC è un bordello come produzione, cioè, tantissima gente si lamenta di gente nella produzione, come si chiama, produttori esecutivi che sono fuori di testa. E poi cambiano. Non però, cioè, cambiano sempre, sì. Poi, tipo, esatto, esce fuori una roba tipo Suicide Squad, che cambia completamente tono durante... Sì, cambia tono ed è stato annunciato il reboot tipo un anno dopo. Sì, esatto, cioè, veramente ridicoli. Però il discorso è che, secondo me, c'è anche un problema di base in Zack Snyder, che vuole fare sempre 100 cose in una. Infatti, a me, cioè, i film che lui ha fatto che mi piacciono di più sono quelli in cui non fa 100 cose in una, tipo Man of Steel, tipo mettiamoci pure Watchmen, che anche se dico ok è derivativo, è quello che c'è, cioè, c'ha problemi di editing, quello che ti pare, vedo che almeno, cioè, viene fuori il suo talento, che è quello visivo, no? Sì. Ci sono dei momenti anche in questo film, tipo quando sono quei 15 secondi di Victor in auto prima dell'incidente con la madre, che, cioè, lì, diciamo, per un secondo vedi quello che dovrebbe essere la DC di Zack Snyder. Cioè, quando tu dici la gente si lamenta perché DC triste, Marvel cazzona, in realtà no, cioè la DC secondo me potrebbe, forse dovrebbe essere più seria e parlare di temi più seri, più adulta, e perché è quello un po' il, come posso dire, lo stemma, no? La cosa che si portano dietro. Ma Zack Snyder, cioè, ogni volta secondo me non riesce ad entrarci, cioè gli sfiora quegli argomenti, e secondo me quella scena era un momento in cui ci stava più entrando prima che venisse interrotto da un camion. Sì, può essere. Era una cosa più, sembrava più reale e più dolorosa rispetto a, paradossalmente, la decima volta che vediamo sparare i genitori di Bruce Wayne, cioè. Sì, è molto... Sì, tende a divagare, cioè non approfondisce il punto. Beh, certo, ma lui è un cioè, po'... fa un po' l'edgelord, poi però sì, non approfondisce, sì. Cioè, capito? Non è... Sì, no, sono d'accordo. E questo film, cioè, è un po' anche questo. Anche Marta... che è la battuta più divertente di Snyder, non è di questo film, cioè la dice lunga sul fatto che lui stava, cioè lì sarebbe dovuto arrivare al punto e invece ci ha pisciato sopra, cioè. Sì, cioè Batman vs Superman mi fa incazzare, anche perché il fumetto di base è stupendo, cioè se avesse usato solo quello, cioè se si fosse basato solo su Dark Knight Returns, come si chiama, di Miller, sì. Quello, porco due, già da solo, cioè già ci hanno fatto il cartone animato in due parti, il film animato, a posto, cioè non devono fare altro, invece hanno preso il fumetto, l'hanno animato, cioè non so perché si è dovuto perdere in 200 cose diverse, perché forse perché aveva fretta sua, troppa così, oppure li hanno messi ai produttori. Non so, cioè... Non lo so, lì è difficile, anche perché lui ha veramente... Cioè, in quel momento lui ha veramente il potere di fare qualsiasi cosa, ma allo stesso tempo ha della gente dietro che gli dice cosa deve fare, cosa non deve fare, quindi è... Insomma... No, perché poi, cioè, se te la prendi con calma, tipo Aquaman o Wonder Woman... Vabbè, il finale di Wonder Woman fa cagare, però ecco. Sono... cioè... Sono film che hanno un senso, cioè hanno una parvenza di autoconclusività. Perché prima dicevi WandaVision, cioè WandaVision è una serie TV, ma addirittura finisce, cioè in teoria potrebbe anche non continuare, cioè nel senso... Sì, io spero che non continuerà, tra l'altro. Anch'io spero. Che non... Cioè... Perché... Continua in un film, cioè continua in Doctor Strange 2. Sì, esatto, continua in... però... nella continuity, però il... Sam Raimi. Però, cioè, non è... Tutte le cose Marvel, secondo me, nel bene o nel male, la gente dice, ah sì, è parte di una... cioè, tutta una roba, capito, sembra una serie TV, che merda. Ma in realtà è più autoconclusiva della roba di Snyder. Sì, cioè, è, almeno è organica, nel senso che loro decidono a tavolino prima che cosa fare cosa, e poi ovvio che loro non hanno cominciato così, che loro l'hanno imbeccata bene all'inizio, eccetera, eccetera. Però loro si sono messi a un tavolo e hanno detto, noi vogliamo fare un progetto di questo tipo, facciamo questi film che hanno il fine di presentare il personaggio, quindi l'Uomo d'Acciaio avrebbe dovuto sarebbe dovuto essere il film per presentare Superman, e funziona. E poi Batman vs Superman doveva essere il film che presentava Batman e l'universo e il multiverso DC, ed è finito un po' uno schifo perché mancava altro. E manca l'omino che ti dice, guarda, devi fare questo e quell'altro. No, ci sta. E... manca, esatto, però manca il Faghi, cioè manca il coglione che sta lì e pensa solamente a queste cazzate. Sì. Cioè che non... Perché Snyder deve fare tutto, praticamente. Deve fare sì, sia sì. Quello che... Il problema è quello che Snyder deve... Cioè, non è che lui deve fare tutto. Lui ha detto, io voglio fare tutto, e lui ha detto, sì, fai il cazzo che ti pare. Esatto. Dovrebbero trovare... Tipo, dovrebbero clonare Snyder, metterne uno che fa queste cazzo della Feige e uno che dirige Flash, il film di Flash. Perché secondo me... Cioè, io lo ripeto, Zack Snyder deve fare il film di Flash. È perfetto. Il rallenti ha senso, sì, per sì, la prima sì. Volta nella sua carriera. Il personaggio già da solo mi fa ridere, cioè è fantastico, è fenomenale. Gli effetti speciali, tutto quanto, cioè metti la tuta rossa che poi già la puoi desaturare quando ti pare, comunque rimane rossa, cioè sì. È perfetto. Devono fargli fare quello. Sì. Gli fanno fare Flashpoint, così c'è tutti quanti i personaggi di DC che cazzo che ti pare, a posto. Per finito, cioè, dopo è contento. Vogliamo dire due robe al volo sugli attori? Perché secondo me vale la pena, nel senso che, ok, è vero che sono gli stessi attori che c'erano prima, però non so come dire, sono più bravi. Cioè, col fatto che la caratterizzazione è migliore, e col fatto che probabilmente nel momento in cui giravano sapevano già che cosa... Cioè, quello che li dirigeva aveva una chiara idea di quello che poi sarebbe stato il prodotto finale. Gli attori rendono meglio. Poi magari è solo una mia impressione. Però, secondo me, quello che è venuto fuori col montaggio precedente, poi non successivo, è che gli attori non avevano bene le idee chiare. Quindi Superman era scollegato. C'erano le scene di Superman che aveva girato Zack Snyder, che lo voleva fare Superman come è uscito fuori, che tra l'altro è molto figo, a parte alcune battute sono un po' imbarazzanti, ma Superman di fatto deve avere battute imbarazzanti perché è un personaggio un po' imbarazzante. Però poi si scontravano con quelle finali quando lui picchiava Steppenwolf e diceva non fai male, tipo Marvel, no? E quella roba lì non c'è più. E quello che a me è rimasto è che comunque Ben Affleck, secondo me, è un Batman ancora migliore di quello che era in Batman vs Superman. È vero che è vecchio, è vero che ci vuole un ricambio, però è comunque un ottimo Batman. Henry Cavill è probabilmente il miglior Superman che io abbia mai visto. Piano. E... beh, sì. Stai calmo. A parte quello di Smallville. Esatto. Beh. E Jason Momoa è perfetto. Ezra Miller mi piace tantissimo. E anche Gal Gadot, ovviamente, ma quello anche prima. E... beh, sì, Gal Gadot in ogni contesto. E Ray Fisher è... anche se lui magari davvero non lo è, riesce a rendere quel cazzo di straccio che è Cyborg, che è il personaggio quello più malato mentalmente, che ha più... è il personaggio più brutto della storia, cioè penso... Però lo rende da Dio, cioè lo rende sì, sì. Veramente depresso e da prendere a schiaffi tutto il tempo come dovrebbe essere il vero Cyborg. Quindi esatto, mi sono piaciuti veramente tantissimo. E Jeremy Irons è l'Alfred più figo della storia degli Alfred. Vabbè, sì. Perché è Jeremy Irons, non perché è un bel personaggio in realtà, però... Sì, no, in realtà non è Alfred praticamente. Esatto. Però... Cioè, penso sia pure più giovane di Bruce Wayne in alcune scene. Forse è colpa dell'alcolismo di Ben Affleck, non lo so. E mi è piaciuto molto, mi è piaciuto come li gestisce Snyder, nel senso che Snyder li gestisce in modo tale che Batman è effettivamente la spalla comica. Cioè, non so, è lui che questo fa questo, è vero, sì, ed è bello, cazzo. Cioè, non è solo lui che fa le battute, ma è anche lui che viene preso per il culo. Sì, non è male. Come ed te. È una cosa molto bella. E non è Aquaman che dice le sue cose da macho, che era una roba molto Thor, e lo è ancora in Aquaman. E... No, vabbè, Aquaman, dopo aver visto Aquaman, non riuscirò mai più a guardarlo. Cioè, gli voglio bene, nel senso, è un tenerone. Sì, sì, no, certo. Però sì, cioè, è figo perché le dinamiche sono le stesse che ci sono in Justice League, diciamo, nei fumetti o nei cartoni. Cioè che Aquaman è un figo, anche se nella realtà lo prenderebbero tutti per il culo per come va in giro. Bruce Wayne viene preso per il culo da tutti, perché cioè, non può fare nulla, tipo non può volare, non può... Esatto, sì, e ci sta, ed è bravo Ben Affleck a renderlo, perché è proprio il represso, no? Cioè è quello che è figo, ma in realtà poi sì, sì, è quello un po' preso in mezzo, e secondo me è perfetto. C'è una cosa che mi ha fatto un po' incazzare, sì, cioè che hanno buttato una scena, secondo me carina, tra Martha e Lois, per presentare un personaggio che non sì, serve a un cazzo. Che non serve a un cazzo, però a me sarebbe piaciuto tantissimo vedere un film su di lui. Sì, lui è interessante. Perché lui è bello nei fumetti, è bello nei cartoni, perché lui è la Justice League, che è, vabbè, si può spoilerare, tanto sti cazzi. Barbalian, e... no, quello è Black Hammer. Che è Martian Manhunter, e che in realtà dovrebbe essere, cioè sarebbe dovuto essere la Justice League, infatti ha fatto bene a metterlo. Ed è un bel personaggio, però è vero, ha smerdato un po' quella scena lì. E da una parte, dall'altra, se fosse stato una continuity probabilmente sarebbe stato anche carino, o no? Sì, no, per me diciamo i più grandi assenti della Justice League sotto questo punto di vista sono Constantine e oddio non so, forse Zatanna o... Sì, ah, vabbè, no, Lanterna Verde, porco due. Vabbè, ovviamente quello Lanterna Verde, per il culo. Sì, ovviamente Lanterna Verde manca e c'è, perché è previsto. No, nel senso è previsto comunque che ci sia Lanterna Verde, viene fatto vedere, viene presentato, non ovviamente non Lanterna Verde vero. Ryan Reynolds. Grazie a Dio. E... No, sarebbe stato troppo bello invece. Sì, se avessero messo dentro la finiccata. Non so se Reynolds l'avrebbe mai fatto. Non credo, ma... proprio. Non lo so, a me dispiace un casino per davvero per Henry Cavill, perché cioè rischia di saltare e lui, il poverino, gli voglio bene, cioè... No, mi dispiace anche perché anche lui, cioè, anche lui piaceva il a lui il piace, ruolo. È perfetto, cazzo, è davvero perfetto. E... Vabbè. Infatti un po' mi rode del culo che non hanno messo in Shazam, perché sarebbe stata l'ultima, cioè l'ultima sua apparizione, insomma. Oh, adesso magari lo tengo, sai, la Warner è imprevedibile, hai fatto il recast di Joker 16 volte, ma alla fine qua c'è Jared Leto lo stesso. E la Warner... Beh, quello è diverso, però, cioè quel film è un'altra cosa, un'altra... Cioè, secondo me questo è il bello da DC, che non gliene frega un cazzo, cioè possono fare 200 linee narrative diverse. Magari appunto in Black Adam, come si chiamerà il sequel di Shazam, ci sarà ancora altra gente a che fa sti personaggi, insomma. Già sappiamo che c'è The Rock, questo è importante. Esatto. Oddio. E hanno anche detto un altro tizio, mi sa. Hanno annunciato di recente un altro cast. Non so. Poi ha un'ultima roba sugli attori. E non dice quasi un cazzo, però anche lui è uguale ed è perfetto. È Joe Manganiello per Deathstroke. E esteticamente è uguale, cazzo. È lui. Io lo voglio. Cioè, lui. Voglio la minifigure con Joe Manganiello. che puoi vestire e svestire da tizio di Blood a Deathstroke. Da Lupo Mannaro a Deathstroke. No, lui è veramente perfetto, cioè... Io già avevo detto che era perfetto Deathstroke in Titans, secondo è me. È vero, sì, è vero. Sì. Però era questo è ancora meglio, secondo me. Secondo me il Batman più perfetto mai fatto nella storia di tutto quanto, film, cinema, è il Batman che si vede in penombra alla fine della prima stagione di Titans. È perfetto. Io non, cioè, so, se silhouette... lui... sì, io non so se lui è il Batman migliore, ma sicuramente è il Bruce Wayne migliore. Attenzione, quello cazzo è lui, cioè. Quello effettivamente non so, aspetterei mai che è Batman, quindi forse sì, senso. Pensavo Robert Pattinson. Ma lui in realtà è imprevedibile, perché in The Lighthouse ti ha tirato fuori quella roba lì che mentre si masturba è... Però posso dire un attore che invece non ce lo posso vedere, lo sapete già. J. Jonah Jameson che fa Jim Gordon, okay. J.K. Simpson. Ah, c'è J.K. Simmons che fa... Credevo te la prendessi con Jesse Eisenberg. No, lui mi sta simpatico, purtroppo. Esatto, cioè lui è simpatico, lui come persona, esatto, cioè come faccia, quindi non gli puoi fare un cazzo. No, mi sta... cioè non è che mi sta antipatico, cioè lui è bravo, però J.K. Simmons con quel parrucchino, non lo so... Sì, non... cosi finti. Si non mi convince, mi convince di più Jeffrey Wright in quello di Pattinson, come Gordon. E vabbè, e Gary Oldman che rimarrà per sempre... Vabbè, certo, chiaro. Vabbè, sempre... era proprio un altro tipo di Batman, quello. Poi devo dire, cioè, Batman Begins non è invecchiato benissimo, sarebbe da Batman Begins, no, l'unico invecchiato bene è Cavaliere Oscuro, perché l'ultimo è... già, ma anche quando è uscito è... già. Sì. Sì, no, infatti l'ho rivisto di recente, per dire, magari me lo ricordo male, invece me lo ricordavo bene. Sai chi è, secondo me, il... adesso magari dico una cazzata. E... secondo me... chi fa invecchiare male i film, oddio, è Liam Neeson. No, dai. Allora, c'è un film di Liam Neeson che è invecchiato bene. La minaccia fantasma è invecchiato benissimo. Boddio. No, Liam Neeson, secondo me, quello sul treno, ancora ce l'ho rivisto un po' di tempo fa, cioè a me è piaciuto già quando è uscito, non so perché, mi è rimasto impresso quello sul treno, sì, poi vabbè, quello sulla 23, cioè ma non è così vecchio quello, lo so, sono su cose, va bene. Tipo Love Actually, vabbè, Schindler's List è un po' un film a parte. Beh, Liam Neeson sugli ebrei, capito? Cioè Liam Neeson da solo non va bene, però Liam Neeson su cose. Secondo me è lui che fa invecchiare male le cose, però poi io magari mi sbaglio. Oddio, Taken, effettivamente. Oddio, A-Team. Oddio, è vero! Avevo A-Team, detto vecchio, 2010. Ti giuro, mi ero dimenticato. No, è abbastanza vecchio. Beh, vabbè, prima di A-Team ha fatto sconto da Titania, comunque, cioè, nel senso... Oddio, chi era Mr. T in quel film? Aspetta, vabbè, c'era Brady Cooper, ovviamente, e c'era... cazzo è? C'era quella gnocca assurda di Jessica Biel. Oh mio Dio. Dov'è? Quinton Ramon Jackson. Ah, eccolo, sì, Quinton Jackson. Che giustamente è un kickboxer, non è? Eh sì, non è un attore. Per onorare Mr. T. Va bene, dai. E, vabbè, abbiamo già parlato a sufficienza, direi. Un'ora di Snyder Cut. Quattro ore e mezza di film, cazzo. Però non ha espresso la sua opinione. No, no, sì, esatto. Io non voglio. Non ci ho capito niente, cioè, nel senso, l'ho visto talmente veloce che ho visto scene a caso. Basta. No, è che in realtà volevo vedere, cioè, come abbiamo detto, è che non ho visto niente dell'universo DC e volevo recuperare, quindi Il problema di recuperare l'universo DC è che secondo me dovreste recuperare solo i cartoni animati, perché i film sono talmente mischiati che non capisci qual è bene e qual è male. È come recuperare i fumetti, cioè i fumetti sono così tanti cose che o recuperi i singoli albi o i singoli, insomma, le singole serie, oppure non sai da dove cazzo iniziare, è uguale. No, però effettivamente della DC c'è tanto di roba, diciamo, un po' corta, come si dice, cioè auto. Tipo, Autoconclusiva, sì. quasi tutti i film sono stupendi, anche quelli con Superman, tipo tutti quelli tipo Flashpoint, Red Son, quello che ho detto prima, Ritorno al Cavaliere Oscuro, cioè sono tutti stupendi, quindi cioè, quelli recuperateli. Son of Batman, così. Di fumetti pure, cazzo, cioè, fanno tanta roba. Sandman, Something, Sì, beh, certo. tanta roba. Va bene, quindi Tranquillo, Joe. vogliamo Celebrare il compleanno. celebrare, tra virgolette, con un gioco. Allora, Ma no, ma allora facciamo la 101esima, dai. facciamo la 101esima? No? Vogliamo fare una puntata a parte solo con questo gioco? 5 minuti? Visto Ce la che fai con la 101esima a fare una puntata a parte con sto gioco? Quanto dura? 10 sì, dai, ce la possiamo fare, minuti? Va così bene. ci risparmiamo il film che volevamo fare. Che la carriera di 101. Esatto. Certo. Va bene, dai. Allora io niente, vi salutiamo e grazie per averci seguito in questa lunghissima puntata di Rant. Boh, non era un vero Rant, però. E noi ci vediamo settimana prossima con un gioco. E adesso andiamo a registrare l'episodio che avete già sentito settimana scorsa. E ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.